Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti da Nicoletta Carbone. Nel corso di questa puntata, come avete sentito, ci saranno degli aggiornamenti, apriremo una finestra per quanto è avvenuto a Kabul, avete appena sentito dal GR. Intanto io direi di iniziare subito la nostra trasmissione. Il tema di oggi riguarda la nostra bocca, quindi parleremo di denti, gengive, mucose e lingua. Lo faremo con due esperti, il professor Roberto Weinstein, che è ordinario all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Ci occuperemo anche della bocca dei nostri bambini insieme al dottor Matteo Basso, odontoiatra infantile. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Professor Weinstein, lo diciamo sempre, una bocca sana è garanzia per la nostra salute, non è un modo di dire. No, assolutamente, per due ragioni. Da un lato perché le patologie che coinvolgono la bocca possono coinvolgere tutto l'organismo e mettere a rischio cuore, reni e altri organi. E dall'altro lato perché spesso in bocca ci sono dei segni che ci fanno immaginare la presenza di malattie in altri distretti. Allora, professore, io le chiederei di accompagnarci davanti allo specchio e sì, di provare con un occhio clinico a osservare la nostra bocca. Allora, quando ci avviciniamo allo specchio, solleviamo le labbra, scopriamo denti e gengive. La prima cosa che dobbiamo guardare è se vediamo della patina sulla superficie dei denti, questa si chiama placca. Se vediamo dei depositi più duri che non si rimuovono con lo spazzolino, e questo si chiama tartaro ed è presente soprattutto sulla parte interna degli incisivi inferiori, sì, quello più visibile. E poi guardiamo le gengive che devono apparire di un colore rosa, si dice in gergo color rosa corallo, non deve esserci un bordo arrossato, non devono essere retratte in modo tale da mostrare il colletto dei denti, non devono essere tumefatte. Le mucose, cioè la superficie delle guance, della lingua, del pavimento della bocca e il palato, non devono presentare soluzioni di continuo, vale a dire erosioni, ulcere o alterazioni del colore o del loro profilo. Dottor Basso, vengo da lei invece perché lei ci aiuti a guardare la bocca dei nostri bambini, anche di quelli piccoli. Sì, beh. Quando i denti non ci sono ancora. Beh, innanzitutto il cosiddetto sorriso sdentato dei nostri bambini ha tutto un suo fascino. Sicuramente i nostri bambini hanno tutto un fascino particolare quando ci guardano con questo loro volto. D'altra parte però i denti dei bambini devono essere per forza considerati come i denti degli adulti e in quanto tali devono essere oggetto delle nostre cure. Bisogna sottolineare che i denti dei bambini spesso, perché l'igiene non è soddisfacente e anche per la loro struttura, sono denti piuttosto soggetti a alcune patologie come la comunissima carie. Bisogna quindi valutare bene i nostri bambini e lei ha fatto un buon riferimento all'età, bisogna perdere quella che è una credenza che i bambini debbano essere visitati solo in età più avanzata, verso gli 8-9 anni, perché un bambino piccolo di 3-4 anni già potrebbe richiedere alcune cure da parte del dentista, quantomeno un'educazione per iniziare da solo, con l'aiuto dei genitori, a intervenire, pulire e prevenire quindi alcune patologie. Quindi regole di igiene per grandi e per bambini, ma segnalateci, se avete seguito le indicazioni del professor Weinstein e del dottor Basso, se qualcosa nei vostri denti, sulle vostre mucose, anche sulla vostra lingua vi crea qualche sospetto. Arrivano già dei messaggi sulle gengive che sanguinano, questo ci scrive Carlo. Anita dice che il suo problema sono i denti molto sensibili, quindi al caldo e al freddo. Di tutto questo parleremo, anche sollecitati naturalmente dalle vostre domande, con i nostri esperti. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde a vostra disposizione. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso apriamo una parentesi al femminile, parliamo infatti della salute di noi donne. A fare il punto della situazione ci ha pensato Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, che ieri ha presentato la seconda edizione del Libro Bianco. In linea con noi abbiamo il professor Walter Ricciardi, che è direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica di Roma e curatore del rapporto. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. Professore, allora io vorrei innanzitutto fare un po' un confronto, siamo alla seconda edizione, rispetto a 2 anni fa, noi donne stiamo meglio o stiamo peggio o nulla è cambiato? Ma potremmo dire la salute delle donne italiane è buona ma non troppo, nel senso che rispetto a 2 anni fa è cresciuta un po' l'aspettativa di vita, però è cresciuta meno rispetto agli uomini, quindi significa che qualche problema c'è, e quello che noi possiamo identificare come problema principale è un po' la tendenza da parte delle donne italiane ad adottare degli stili di vita non esattamente corretti. Aumentano un po' in tutte le fasce d'età, ma soprattutto nelle ragazze, fumo, alcol, e invece poi lo vedremo meglio dopo nelle donne del sud e in particolar modo l'obesità. Professore, qua possiamo decidere insieme se guardare prima il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Iniziamo a dirci le cose su cui occorre riflettere, magari quelle più critiche, per poi andare invece alle cose che ci fanno star bene. Sì, io sono sempre ottimista, quindi credo che dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, però non c'è dubbio che ci sono alcuni elementi critici. Gli elementi critici sono per esempio quelli legati alla salute delle donne che partoriscono, perché continua ad aumentare il numero di parti cesarei in Italia e pone veramente il nostro paese in una condizione peculiare in tutto il mondo, perché abbiamo ormai il 40% a livello di media nazionale. Se lei pensa che i nostri vicini francesi, olandesi hanno meno della metà, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Se poi andiamo in alcune regioni del sud come la Campania, addirittura 6 parti su 10 sono con questa tipologia, che aumenta i rischi per la donna, perché è comunque un intervento chirurgico. Professore, lei come si spiega questo dato? È un fatto, io credo, organizzativo, perché sostanzialmente non viene adeguatamente incentivato il parto naturale, le pensi che viene pagato pochissimo, diciamo, e quindi sia le strutture sanitarie pubbliche, ma ancor più quelle private, sono incentivate a fare il parto. A proporre cesareo. Il cesareo. E invece bisognerebbe fare, appunto, come hanno fatto molti paesi, che vengono incentivate anche finanziariamente le pratiche sane, quindi il parto naturale e anche l'allattamento al seno, che invece oggi non ha praticamente nessuna forma di incoraggiamento. E altri lati negativi, diciamo, sono quelli legati appunto a quello che dicevo prima, cioè l'aumento dell'obesità, o meglio, a livello nazionale l'obesità diminuisce, ma questa diminuzione è tutta nel centro-nord, perché invece al sud aumentano le donne in sovrappeso o francamente obese, e questo ormai lo sappiamo bene è propedeutico a malattie importanti, per esempio il diabete. Infatti la mortalità in tutte le regioni femminili è molto più alta sud, per le donne al sud rispetto che al nord, quindi questo è un altro aspetto sicuramente negativo, e anche questo io credo correggibile, perché il diabete o comunque in generale il sovrappeso viene attraverso degli stili di vita non sani. Le nostre mamme, le nostre nonne avevano un'attività fisica molto intensa, ma si alimentavano con la dieta mediterranea. Professore, però ci sono anche delle buone notizie. Sì, le buone notizie, per esempio anche il sud adesso sta aumentando la prevenzione dei tumori femminili, non ancora certamente raggiunto il livello di alcune regioni che praticamente offrono questo presidio a tutte le donne, però sta aumentando, e questo sicuramente è un fatto positivo. Professore, quindi se fossimo a colloquio con un insegnante della ragazza Italia, della salute delle donne italiane, che cosa si potrebbe dire? Ma la ragazza ha potenzialità. Bravo, esattamente, però ci sono anche rischi, perché sostanzialmente questo aumento dei fattori di rischio, quelli che dicevo prima, fumo, alcol, obesità, non sono fattori che manifestano le loro conseguenze a breve, per cui diremmo a questa ragazza: guarda, stai facendo bene, però ti esponi alcuni rischi, stai attenta che se non prendi delle misure in tempo potresti avere dei problemi seri. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, buon lavoro. A presto. Pronto soccorso. E noi torniamo ad affrontare il tema di oggi insieme al professor Weinstein e al dottor Basso. Ci occupiamo della nostra bocca, specchio della nostra salute. Il professor Weinstein ci ha spiegato perché molti gli ascoltatori che si stanno mettendo in contatto con noi via sms al 349-238-6666 e con il nostro numero verde 800-24-0024. Mirella da Milano, buongiorno Mirella, grazie. Buongiorno. È andata davanti allo specchio, ha sentito che cosa ci ha spiegato il professor Weinstein? Sì, ho sentito, ma non chiamo per me. Bene. Chiamo per mia figlia. Volevo fare questa domanda. Ho questa bambina di 8 anni. Sì. Che spesso, e spesso secondo me è indicativamente una volta al mese, ha sempre delle aste in bocca. Sì. E tra l'altro, Mirella, sono molto dolorose. Sì, sono dolorose e tra l'altro è una bambina che non pasticcia mai, non mangia mai dolci. Cosa può essere? Allora, dottor Basso, affido a lei la bambina di Mirella. Con piacere. Allora, le aste sono una problematica che in alcuni pazienti, anche i bambini, si presentano piuttosto frequentemente. Sono molti i fattori che coinvolgono le cause di queste malattie, però va detto che in realtà non sono patologie contagiose, non sono pericolose e si possono affrontare. L'unico problema è rappresentato, come ha detto giustamente lei, dal dolore che queste lesioni portano. Esistono nelle comuni farmacie dei prodotti che servono proprio ad alleviare il dolore, a favorire la cicatrizzazione, come i derivati dell'aloe piuttosto che alcuni triesteri, e si trovano comunemente. Proprio però perché nascono da un insieme di fattori, ma le cause vere non sono ancora note, non esiste una vera e propria terapia. Bisogna proprio portare un po' di pazienza. L'unica consolazione è che comunque nei bambini molto spesso questa problematica si risolve poi spontaneamente. Professor Weinstein, questo è per lei. Mio marito digrigna i denti tutta la notte, non il mio, ma il di un'ascoltatrice che ci scrive al 349-238-6666 e ci chiede: è solo un disturbo fastidioso o può portare a dei problemi più seri? Dunque, è un disturbo piuttosto comune e legato a molteplici fattori. Possono essere dei fattori locali legati a una alterata superficie masticante dei denti, per esempio la presenza di molti restauri, di molte otturazioni o capsule che non consentono un ingranaggio adeguato, e sì, questo porta a questa abitudine, perché l'organismo cerca di abbradere queste superfici ed eliminare eventuali asperità. Oppure può essere un modo per scaricare lo stress, e quindi durante la notte si tende a stringere la mandibola contro il mascellare superiore e muovere in modo alternato la mandibola, esercitando questa azione che porta a una grossissima abrasione dei denti. Non esiste una terapia consolidata, cioè un unico modo per intervenire. Possono essere utili degli apparecchietti che eliminano la tensione, può essere utile ovviamente eliminare le superfici masticanti irregolari, può essere utile l'uso di bassissime dosi, di dosi ridottissime di psicofarmaci, cioè sostanzialmente di benzodiazepine, le quali servono a ridurre il modo di contrarre, la quantità di contrazioni muscolari che conducono a questo fenomeno che si chiama bruxismo. E vediamo che è molto molto diffuso, almeno leggendo gli messaggi dei nostri ascoltatori. Naturalmente riprenderemo il tema e il problema. Adesso andiamo a sentire gli aggiornamenti dei mercati finanziari. Poi, come abbiamo anticipato, ci sarà un aggiornamento su quanto è accaduto a Kabul. 824 0024 il nostro numero verde.